agli studi di Radio Panorama, Andrea Massaro, Antonio Panzica e Alessandro Montemagno presentano L'Onda in Onda! Ebbene, rieccoci trovati a questa nuova spumeggiante puntata dell'Onda in Onda. Come ogni mercoledì dalle 18.30 alle 20.30 vi terremo compagnia sulle vostre stazioni radiofoniche o internet o quello che volete, insomma. Allora, prima di iniziare ovviamente diamo subito i contatti, ricordando che oggi avremo in intervista Il Sogno e il Veleno e poi la Iena Piff, che ci concederà un'intervista proprio sul suo ultimo film, quindi rimarrete con noi incollati proprio alla radio, alle vostre cuffie, ai vostri iPad, ai vostri tablet, al vostro tutto, per rimanere ormai siamo ovunque, dovunque, cioè, possiamo ovunque. Essere dei, a momenti fanno gli ologrammi con Andrea Massaro che parla, esatto, come Star Wars. Bene, allora diamo i contatti che sui quali ci potete trovare, ovvero facebook.com/ondainonda, l'onda in onda, scusate, per la nostra pagina Facebook, twitter.com/ondainonda invece è seguirci scrivendoci l'hashtag onda in onda, commentando la puntata, facendoci richieste, oppure sms al 380 76 90204, 380 76 90204, e poi per chi volesse riascoltarsi le interviste delle precedenti puntate abbiamo creato il nostro canale youtube.com/ondainonda, dal quale potrete ascoltare tranquillamente seduti nel vostro divano di casa, dice il nostro regista, le nostre interviste agli artisti che ci hanno tenuto compagnia in queste puntate qui su Radio Panorama. Bene, non possiamo iniziare questa puntata se non però con la nostra nuovissima sigla cantata proprio da Piotta. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. Onda in onda, pombo, clappio, doccia, piarmo, se va, chiamare! 1, 2, 3, 4! Noi siamo i giovani, ma quanto è bella questa sigla. È bellissima questa sigla, caro regista. Insomma, ricordando i nostri contatti, annunciamo anche che io ho iniziato da solo questa introduzione, ma io appena rivoglio la sigla. Esatto, è appena arrivato Antonio che rivuole la sigla, ma sì, magari gliela rimettiamo poi dopo la pubblicità. Bene, allora ricordiamo i nostri contatti per chi si fosse collegato solo adesso, ovvero pochissimi minuti all'inizio del nostro programma. Sono facebook.com/ondainonda, twitter.com/ondainonda, al quale potrete scriverci, interagire con noi attraverso l'hashtag Onda in Onda, scriverci, interagire con noi. Ah, interagire. Interagire, sì, sì. Attraverso l'hashtag Onda in Onda e poi sms al 380 76 90 204, e ricordiamo, per chi volesse ascoltarsi l'intervista abbiamo fatto nelle precedenti puntate, youtube.com/Onda in Onda, tutte caricate lì viralmente in streaming sul più famoso, insomma, motore. Oh, mentre Antonio fa rumore con la sedia qui e si sta sistemando impostazione, insomma, ricordiamo che oggi avremo in intervista Il Sogno e il Veleno con un bellissimo album Piccole Catastrofi, e poi la Iena Piff, insomma, ha finito di girare il suo film, vedremo cosa avrà da dirci, lo contatteremo più tardi al telefono, e quindi rimarrete con noi per questa bellissima puntata. Io direi di partire subito con il primo pezzo, così Antonio la smette di fare rumore e si sistema qui in postazione. Ci rivediamo subito dopo. Oh shit, baby. Yeah, yeah. We did it again. And this time I'ma make you scream. Yeah, man. I see you over there, so hypnotic, thinking about what I do to that body. I get you like, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Got no drink in my hand, but I'm wasted. I'm trying to fight it. Ebbene, eccoci rientrati proprio. È bellissimo sentire il rumore di giornale. Sì, sì, sì, sì. Antonio, guarda, fai i cazzi suoi proprio in radio. Bravo, bravo, bravo. Magari la smettiamo, che ne dici? Vabbè, non parla. Essendo venuto tardi, però mi sono documentato il giornale di Sicilia della provincia di Enna. Stavo cercando notizie. Ma è interessantissimo. Sì, allora. Sì, c'è tanta ciccia. Sto cercando, ma c'è tanta ciccia. Ma ti è finita la voce? Che hai fatto ieri, Antonio? Sì. Magari leva questa cosa, per favore, che non ne possiamo più. Stavo di cercando. Questo rumore inutile. Infatti, visto che non ho molta voce, volevo leggere per i fatti miei. Sì, e poi perché qualcosa. Non te stavi a casa? No, sfrutto quei minuti in cui posso dire, insomma, con la poca voce che mi resta, qualche notizia della provincia di Enna. Ma che, scusami, con tutto il rispetto per la provincia di Enna, sì. Ma cosa ce ne può fregare noi delle notizie della provincia di Enna? Allora, io tornavo da Taormina, dove ho perso la voce, no? Al concerto di Ligabue, ieri al Teatro Antico, e siccome ho fatto sosta all'autogrill di Sacchitello, ho cercato un giornale. Abbiamo solo il Sicilia di Enna, sì, vabbè. Io vorrei raccontare questo retroscena del concerto di Ligabue, cioè Antonio che mi telefona pensando che io non abbia niente da fare, ovviamente la notte, mi telefona alle 2 di notte per annunciarmi il fatto che lui è contento. Diciamo che eri contento e basta. Ok, sì. Che eri proprio contento, ebro. Ciao dal mamma, concerto. Ci vediamo a cena. Esatto. Sì, ero contento per il concerto. Ero molto su di giri. Ebro dal concerto. Ebro, no? ebro sì, di musica. Ebro. Mi ebro piace di... ebro. Sì, mi piace ebro. Mi piace ebro. Va bene. Com'è stato il concerto? Bellissimo. Bellissimo. C'era una palla di gente. Una palla. Sì. Che regia dicono una palla. Scusa. Come lui quando disse. Ha mangiato. Sì. Vabbè, ma scusate, la ministra non ha detto una paccata. Sì. E allora perché io non posso dire una palla? Perché non è un pacco, ma poi è una non palla. Sei un ministro. E poi non sei un ministro. Ah, quindi sì. Solo i ministri possono dire paccata e palla. Sì. Scusate. Esatto. E poi sì, non hai pianto, quindi no, durante il concerto sì. No, io dico quando ma sì, ma no, se piangi nelle 24 ore precedenti, puoi dire una di questi termini. Ho capito, ho capito. Comunque gran concerto, un bel po' di gente, un casino, sì. Un casino, tutto qui. No, perché se inizio a parlare racconto di un concerto spettacolare, un casino. Ma come faccio ad raccontarti 2 ore e un quarto di concerto? È stato figo, c'è che altro ti devo dire? Sì, ma senti, ma perché lui continua a fare questi concerti con nomi improponibili? Il sottobombardamento. Ma io mi chiederei invece perché Vasco soffre di problemi di inferiorità, di complessi inferiorità. Perché scrive l'altro giorno tipo rock sotto bomb, no, rock sotto assedio. Post del genere che fanno ridere i suoi fan. Tutti bravo, bravo, appena Vasco dice una cazzata tutti. Beh sì, perché lui ha fatto il rock sotto ma ho capito, assedio. Ma sei un cretino se ogni volta devi fare un riferimento a Ligabue. Hai un complesso di inferiorità. Cioè fatti la tua vita, stai tranquillo. Ma sai che lui ora se l'è presa anche con il suo chitarrista. Sì, l'ha sfanculizzato in diretta, cioè dopo 30 anni di lavoro insieme, gli ha detto vaffanculo, letteralmente. Sì, sì, letteralmente. Ma io un'ipotesi ce l'ho. Qual è? Cioè che Vasco stia male, lo sappiamo tutti. Ma che stia molto male. Sì. No, no, non sto scherzando. Come Sara Tommasi, tra sì, no, ma che ha annunciato di avere il cancro al fegato. Sì, dopo che hanno diagnosticato il cancro al fegato. Sara Tommasi. Beh, sai, non c'è almeno mai, così c'è ha detto mai, su Facebook. C'è mai da fidarsi, voglio dire. Vabbè, scusa, caso... la Tommasi è la stessa che ha detto io ho fatto un film porno. Quella con gli alieni è, quello non è un film porno. Sì. Cioè, non puoi... Ah, comunque mi chiamo Antonio Panzica e lecco bene. E comunque, no, dico, per riprendere Sara Tommasi che ciuccia bene i vasi. Io sono Antonio Panzica e lecco. Comunque, sì, questa parte non l'ho mai detta, saranno ancora gli effetti di ieri. Sì. Comunque, stavo dicendo che Sara Tommasi, mi pare difficile che si inventi. Cioè, se ti inventi che gli alieni ti hanno ubriacato per fare il porno, è carina. Ti hanno ubriacato. Così ha detto. Mi hanno ubriacato, drogata, non so cosa ha detto. Ma infatti, ecco perché non era così tanto bello, perché era ubriaca. Sì, allora. Esatto. Allora, le versioni sono discorse. Perché lei ha detto che gli alieni le hanno impiantato un microchip in testa per fare l'amore per spargere l'amore nel mondo. E poi nel film, durante le riprese del film, erano presenti, però l'avevano drogata. Successivamente un'intervista in un'intervista, una registrazione di Marra, il tuttologo Marra. Nonché suo ex, credo. Nonché suo, sì, sì, suo lei ex, è stata con Alfonso guru. Luigi Marra. Ha dichiarato che lei non ricorda nulla di aver girato il porno. Però Marra dice no, ma sei tu. Ma meno male che non ricorda ma nulla. Ma dico, insomma, qualche giorno fa poi lei ha anche aggiunto che da un qualche tempo viene seguita da un team di psicoterapeuti dove l'hanno condotta i suoi genitori ed è aiutata anche dal parroco che aiutò Claudia Colla a uscire a quel periodo di film un po' zozzoni. Comunque e Andrea, io te lo ripeto, quando dici tu la portiamo qui in studio per un'intervista. Ma guarda che gli hanno anche proposto altro. Non so se non parlare alle 18:46. Non voglio neanche dirlo in radio. Sì, però lo diremo, te lo diremo nella pubblicità. Poi mi fate paura. No, ma non sono io, è lui. Ho parlato col suo agente, però. E l'agente gli ha proposto qualcos'altro. Per un'intervista qui in radio, però l'agente ha interpretato tutto a suo modo. Ha detto, ah sì, sì, gliela lascio anche una giornata. Pagando quanto? Lasciamo stare. Vabbè, sì, sì. Non voglio entrare in nessun tipo di processo mediatico. Ci organizziamo. Alessandro, lo so che vuoi il numero, però non mostrare il foglio dall'acquario, dai, che ci ascolta magari anche la tua ragazza. Senti, ma me la fai risentire la sigla? No, no, non posso. Non possiamo, non possiamo. Tu arrivi in ritardo. Scusate, io sono arrivato un minuto e mezzo. No, cioè, no, neanche, perché la sigla stava finendo. Noi siamo qui da un'ora prima. Tu, da buon conduttore, devi venire un'ora prima. Compare, ma io ho ucciso ho raso al suolo mezza piazza Bagni per parcheggiare la macchina. Sono arrivato qui mentre stavo. Tu perché te ne vai al concerto di Ligabue invece di venire in radio? Perché ieri non dovevo venire in radio. Lo so. Cioè, non era giusto. Ma noi eravamo qui. Anche ieri. Anche ieri. Sì, lavoravamo sì, per te. Sì. Mettevate le piastrelle insieme a Giuseppe, che vedo dietro il vetro. Esatto. L'uomo delle capre. Sì, sì, vabbè, sì. Va bene. Ci ascoltiamo un pezzo? Sì, esatto. Partiamo. Lo lancio io, senza voce. Quindi allora ci ascoltiamo Rihanna con We Found Love. Ma come pompa il nostro regista? Cioè, il nostro regista. Regista. Si è addirittura diventato donna e al plurale. Sì. Tante donne. Si è sdoppiato tante, tante donne. Tante. Pompa proprio da morire lui quando mette i pezzi. Cioè, solo in quel momento. Solo in quel momento, solo in quel momento. In altri momenti io. Però se gli mandavo, se le mandiamo, gli mandiamo Sara Tommasi, magari. Magari pomperà. Allora, ricordiamo, come facevano notare proprio dalla regia, di dare il nostro sito, sì, al quale potete ascoltarci in streaming, che è radiopanorama.eu.info. Io avrei detto dal quale, però va dal bene anche sì, al quale. Ah, è vero, ho detto una vaccata. Oppure il nostro profilo sul, proprio sul sito di Radio Panorama, che è radiopanorama.info/ondainonda, al quale potete ascoltare tutte le nostre interviste, esatto, oltre che sui canali dedicati, anche proprio direttamente sul sito. E vi invito anche a guardare le interviste effettuate da Positive Vibration, che a breve prenderà parte alla trasmissione qui sul palinsesto di Radio Panorama. Il giovedì. Alle 21.30. O alle 21? Non lo so, 21.30, 21. Più o meno. Ne sì, saprete più presto, più... Giuseppe, mentre mette le piastrelle, cerca di darmi una risposta, ma deve controllare. Deve controllare. Toglie una piastrella sotto la quale è rimasto l'orario. Senti, Antonio, io non so se tu in questi giorni, insomma, hai sentito il grave scandalo che sta colpendo l'Italia. Certo. Immagino, a Taormina. Sì. Il grave scandalo... Non è che a Taormina non arrivano i giornali. Cos'è successo? Nel senso che si sta indagando la procura di Palermo, proprio sì, tramite il procuratore Ingroia, sta indagando su quella che è la trattativa. Si pensa ci sia, cioè, la trattativa ormai... Tu immagini è... la signora, cioè la moglie di Ingroia. Perché? Dico, la signora Ingroia. No, lasciamo stare. Vabbè, lasciamo stare queste battutacce da bar. Basta. Sto parlando di una cosa serissima. Allora, la trattativa, no, che si sa che c'è stata, ma si sta indagando appunto su quali furono gli autori materiali, chi prese parte a livello politico alla trattativa tra Stato e mafia. E praticamente il fatto del giorno, o di questi giorni, è che la procura di Palermo, no, ha intercettato il presidente della Repubblica Napolitano, e il Napolitano ha sollevato questo conflitto di attribuzione perché lui dovrebbe essere giudicato alla Corte Costituzionale, e quindi ha appunto adito la Corte Costituzionale al conflitto di attribuzione sulle intercettazioni effettuate dalla procura di Palermo. Ora, visto che il Colle è molto adirato per questa cosa, ci teneva tantissimo a dire la sua, visto che i mezzi di informazione, dice lui, che non sono, diciamo, dalla sua parte, non ha spazio nei TG di informazione, e allora ha chiamato proprio Radio Panorama ed è qui con noi al telefono. Vediamo se la regia riesce a mettermi in contatto. Abbiamo proprio il presidente Napolitano per rivelazioni veramente scioccanti. Pronto? Pronto? Mucca. Pronto? Mucca. Pronto? Sento mucca, regia. A spasso con la mucca. Pronto? Presidente? Andate a spasso con la mucca. Presidente? Sì, pronto. Presidente, con chi stava parlando, presidente? Benvenuto intanto su Radio Panorama. Salve. No, stavo parlando di nascosto in codice, per non farmi capire. Ma perché... a chi? Lei ha, insomma, questi contatti, sì, vari. E sì, per la trattativa. E per la trattativa. Ah, lei ancora parla per la trattativa? Sì. Impressionante. In codice. Sì. Mucca, quindi, beh, ormai l'ha detto in diretta. Posso dire? Mucca è mia moglie. Come sua moglie? Cosa c'entra sua moglie con la trattativa? No, che è stato mafia? La trattativa per riprendersi mia moglie. L'hanno rapita ieri sera. Ma chi? Hanno rapito sua moglie? Sì. E lei la vuole riportare a casa? Assolutamente, se no non posso girare. Senza Clio dove vai? Ma, presidente, lei l'ultima puntata, insomma, ha fatto le dichiarazioni all'onorevole Concia, quindi mi sa che sua moglie, insomma, se l'è data a gambe, magari non è stata rapita. Io credo di essere stata rapita. Senta, presidente, non parliamo di sua moglie, ma che non è l'argomento del giorno. Parliamo appunto io di queste... insomma, speriamo che sua moglie torni presto a casa. Lei è un grande... cioè, una gran persona. Dico, presidente, lei è la cadega più importante dello Stato, e proprio per questo lei ha adito la Corte Costituzionale al conflitto di attribuzioni. Intanto, presidente, mi spieghi questo conflitto di attribuzioni? Allora, presidente, sì, non la vedo preparata. No. Se mi dando seconde un attimo. Ma dove è stato ieri, presidente? Presidente, A Taormina. Anche lei era a Taormina, presidente? Sì, sì, sì. Ma come? Con tutto questo casino che c'è, però lei se n'è andato a Taormina. A Taormina farò bagno. Ah, a fare il bagno? No, sì. Pensavo fosse anche andato lei a vedere il concerto. Ma di... No, di nessuno, presidente. Ah, okay. No, io ero a mare. A mare, presidente, sì. Ho capito. E senti, poi non ho trovato più mia moglie. Ah, quindi la storia torna indietro. Io sono ancora a Taormina. Ah, lei? La sto chiamando da Taormina. Infatti perché la sento più vicino. Vede che il segnale è migliore. Il segnale è migliore, sì, è vero. Sono al Colle perché... Sono su un colle sopra Taormina. Sempre Colle. Addirittura. Castelmola. Castelmola. Dove ci sono bravissimi dentisti. Certo, immagino. Senta, mi dica, presidente, Perché ha dito la Corte Costituzionale per il intanto conflitto? Io non capisco che vuol dire ha dito. Cioè ha dato mandato. Ha dato alla... a dito. No, ha dato mandato alla Corte Costituzionale di occuparsi di questo conflitto il tra la procura. La confonde. La sì. Confonde. No, perché lei ha nominato l'avvocatura dello Stato a difenderla sì. Davanti alla. La Severino. No, no, non l'avvocato. No, no, l'avvocatura dello Stato è un organo, presidente. La dovrebbe conoscere lei. Sì, la... sì, io conosco tanti organi. No, presidente, l'organo dello Stato. Sì, ma il mio. Mi spieghi. Allora, tutti parlano di queste telefonate intercettate, ma lei cosa diceva in queste telefonate? Ma io, scusa, cosa dicevo nelle telefonate della trattativa Stato-mafia? Eh sì, presidente. Io soltanto ho detto scusate, ho lasciato da qualche parte il mio borsellino e qualcuno ha capito altro. Cioè, me lo sono presidente, scordato. Ma cioè, dichiarazioni scioccanti, c'era bisogno di dire addirittura alla Corte Costituzionale. Ma io l'ho detto tranquillamente, cioè. Però, siccome c'è stata un po' una travisatura con la dito, vedo che infilo la dito. Ah, capisco. Ma è sempre infilato una dito. Almeno una dito al giorno toglierlo di così. Certo, tipo. Certo. E allora è stato meglio precisare con la Corte che parlavo del mio borsellino. Ah, del con suo i miei borsellino, risparmi. Con i suoi risparmi sì. Veri, proprio un borsellino sì, fisico, un portafoglio. Io l'8 luglio del 92 sì. Ho perso il mio borsellino. Guarda caso. Sì. E dove l'ha perso questo borsellino? A Palermo. Vabbè. In via D'Amelio. A Mitropoli per caso. Proprio per caso? Sì. Ho capito. Mi piaceva presidente. Il nome. Ho capito, presidente. Quindi lei ci teneva proprio a dirlo in radio perché i mezzi di informazione non sì, le danno sì, sì, sì. Non le danno spazio. Di Pietro perché... è molto adirato invece. Vede che ci sono sempre questi termini con adito la e adirato. Quindi si inserisceerà. Esatto. Che bello. Prima di fine puntata diremo adirameto. Sì, non lo so, presidente. Se lei vuole restare con noi fino sì, alla fine sì. Puntata. Basta che aggiungiamo una sillaba ogni 3 secondi. Ma quindi lei resta con noi per tutta sì. La puntata, presidente. Ogni tanto interverrò. Oh, ogni tanto interverrà. Va bene, noi la teniamo in attesa qui al telefono. Senta, appunto. Dicevo, Di Pietro è molto adirato per questa sì. Trattativa. Lei vuol dare un messaggio a Di Pietro? Oggi Bersani si è schierato dalla sua parte. Ha detto che è vergognoso quello che dice Di Pietro. Il messaggio che vorrei dare a Di Pietro è: se non sai l'italiano, non usare il termine adirato. Perché no, l'ho usato io, presidente. Sì, ho capito, ma non puoi parlare di Di Pietro in termini adirato, perché uno non lo capisce. Ho capito, presidente. Questo è l'unico messaggio che vorrei dare a Di Pietro. Sì. Va bene, vuol dire qualcos'altra cosa. Vabbè. Io perché oggi non... parlo male, presidente. Sì, mi sono incartato la lingua su me stesso, perché vuole sai, l'emozione di parlare col presidente della Repubblica è... Ma è perché è una tautologia incartatrice da sola. Questa è una citazione bellissima, grande. Ma io direi un'eccitazione. Sì, no, un regista, lei, guarda, una memoria storica di questo programma. Lei vuole proprio uno scoop. Mi dica lo scoop, presidente. Lei per lo favore. Sa con chi sono in vacanza a Taormina? No, presidente, me lo dica. Le do un aiuto. Il sale. Il sale? Scusate. No, con lui. Ma ci dico una cosa velocissima e poi andiamo in pubblicità, sì, presidente. Sì, sì, sì. Ma lui ritorna o no? Io lo dico dopo la pubblicità. No, presidente. Va bene, allora ristate in diretta per la rivelazione. Ristate. Cioè, appena se ne è andato la pubblicità, non le ho sì, ristate. Sì. Restate in diretta dopo la pubblicità per scoprire se lui tornerà o no. Spot. Positive Vibration, il programma di musica ed approfondimento reggae dagli studi di Termini Imerese. In pieno rispetto della filosofia One Love, Claudio e Riccardo controllano le onde di Radio Panorama. Tutti i giovedì dalle 21.30 alle 23.30, il meglio della reggae music, italiana e mondiale. Stay tuned on Reggae Vibes. Panorama. Aquarium. Tutto per l'acquario, rettili, roditori e ornitologia, pesci esotici di acqua dolce e marina, disponibilità di cuccioli di tutte le razze. Inoltre, per far star meglio i tuoi piccoli amici, prodotti delle migliori marche, Royal Canin, Eukanuba, Hills, Purina Mills. E per vederli sempre più belli e felici, siamo professionisti nel lavaggio e toilettatura. I migliori prodotti anche per il tuo acquario, Tetra, Ascol e tanto altro ancora. E poi, articoli da pesca e subacquea ed esca viva. Aquarium lo trovi in via Palmiro Togliatti 28 a Termini Imerese. Per informazioni telefono fax 091 814 3016, email acquariotermini@libero.it oppure visita il sito acquariumtermini.it. Panorama. Problemi all'auto? Forse prima di conoscere EG Auto. EG Auto è concessionaria plurimarche con vendita nuovo e usato. E quando serve EG Auto è anche carrozzeria e soccorso stradale 24 ore su 24 in Contrada Fiumara a Castelbuono. 334 20 90 047. EG Auto di Eugenio Franco in via Cefalù a Castelbuono. Telefono 0921 67 90 90. EG Auto per viaggi sereni. Panorama. Eccolo lo stile che cercavi, da sempre. Fratelli di Salvo, classe e comfort. Il mobile come arte da vivere, ogni giorno, dai classici ai moderni. Il design di linee uniche, tanti salotti e camerette delle marche migliori. Le cucine componibili firmate Ala, Artre, grandi elettrodomestici Rex, Ariston, Whirlpool, Samsung. La qualità che conviene e la comodità dei pagamenti personalizzati in 12 mesi a tasso zero. Lo stile che cerchi, c'è. Fratelli di Salvo a Campo Felice di Roccella. Esposizione in via Umberto 8. Esposizione uffici in via Petrarca 41. Telefono 09 21 933 977. Email mobili.disalvo@hotmail.it. Sito internet www.mobilifratellidisalvo.it. Spot. 2N Centro Rigenerazione Cartucce è amico dell'ambiente e anche del risparmio. Da noi vendita di cartucce compatibili, stampanti e computer rigenerati, telefonini e accessori. Siamo anche specializzati nella rigenerazione di cartucce inkjet e ancora fotocopia a colori, email, fax, cancelleria e modulistica. Ma non è finita, con MoneyGram inviamo con assoluta sicurezza denaro in Est Europa e America Latina, con tariffe davvero speciali. Inoltre puoi acquistare prodotti su chl.it e ritirarli direttamente da noi. Ci trovi in piazza Sant'Antonio a Termini Imerese con telefono fax 091 50 72 715, email centro2n@libero.it. 2N di Aglieri Rinella Agata, il prezzo giusto al momento giusto. Panorama. I sapori intensi di Sicilia in tavola. Se vuoi assaggiare la vera cucina tipica siciliana con prodotti locali provenienti dalla nostra azienda, a Ficurigna. Delizia il tuo palato con le nostre specialità o prova una delle tantissime pizze cotte nel forno a legna. Ti puoi anche accomodare nell'ampio terrazzo all'aperto o, se vuoi le nostre prelibatezze, te le consegniamo anche a casa. Pizzeria ristorante a Ficurigna. Contrada San Giovanni Ligreci, sulla strada provinciale 21, al chilometro 5 e 2 a Caccamo. La ditta New System è lieta di presentare la nuova linea di tende da sole Tempo Test Parà. Alcuni esempi in promozione giugno-luglio. Tenda modello balcone 240x260 a soli 240 euro. Tenda modello con cassonetto a 320 euro. Inoltre zanzariera per ogni esigenza di apertura, porta o finestra a 49 euro al metro quadro. E ancora tende alla veneziana rullo, plissé e verticali. In più gazebi e ombrelloni per piccoli e grandi coperture. Soluzioni per coperture, pergole, infissi in alluminio, PVC e legno alluminio. New System di Purpura Gilberto. Showroom in via Maestro Pintorno 7779 a Cefalù. Contattaci o prenota un preventivo gratuito anche al tuo domicilio telefonando allo 0921 82 04 37. Panorama. Arriva l'estate, ritorna il Malik. Lido balneare, piscina, vasca idro e tutti i comfort. E al calare della sera, aperitivi, piatti di frutta, drink e tanta musica. Prenota servizi diurni e tavoli serali allo 0921 420205. Malik, un sogno che dura tutta l'estate sul lungomare di Cefalù. Panorama. Eden Park e Self Hotel. La vacanza su misura per te, per vivere il fascino delle isole Eolie, dell'isola di Vulcano, il suo mare cristallino, le sue calette da sogno. Eden Park Self Hotel, a Vulcano. Disponiamo di mini appartamenti e possibilità di campeggio, con colazione compresa. Per informazioni e prenotazioni, telefono 090 9852 120, www.isolavulcano.it oppure www.vulcano-eolie.it. Vulcano Isole Eolie, il paradiso. Non cercarlo altrove. Panorama. Musicalmente insieme, un programma tutto da scoprire con tanta buona musica, opinioni ed ospiti. In studio per voi, Vito Inchiappa. Ogni domenica dalle 9 alle 11. Naturalmente su Radio Panorama. Sono le ore 19 e 4 minuti. I benzinai confermano la serrata. 3 indagati per maltrattamenti agli animali. Vivisezione sequestrata a Green Hill. Scienza, motore ad energia atomica. In chiusura, le previsioni del tempo. Tra pochissimo, nell'edizione delle ore 19. Restate con noi. Dai, su, avanti, scendi. Muoviti! Ha ha ha ha ha! Sarà un cane abbandonato? Sei padrone di decidere. Campagna promossa dalla Lega Nazionale per la difesa del cane. RestaurantOnClick.it è il portale dei ristoranti. Cerchi un ristorante per una serata romantica? Vuoi un menù speciale a prezzo fisso o uno sconto per una cena tra amici? Ti piacciono le serate a tema? RestaurantOnClick trova per te i migliori ristoranti e le migliori offerte in tutta Italia. Dove andiamo a mangiare oggi? RestaurantOnClick.it lo sa. Mercoledì 18 luglio, buonasera dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Conferma da parte dei gestori degli impianti di carburante delle giornate di scioperi fissate per il weekend di mezza estate dal 3 al 5 agosto. In attesa di un incontro con il garante sugli scioperi, i benzinai fanno sapere attraverso le organizzazioni di categoria che le agitazioni inizieranno nel prossimo fine settimana, con una mobilitazione aperta da un comunicato agli automobilisti per giustificare la serrata. Il garante aveva già detto di no alla sospensione del servizio. Cambiamo argomento. Il Corpo Forestale dello Stato ha eseguito il sequestro di Green Hill, la nota azienda situata a Montichiari, in provincia di Brescia, che alleva cani beagle per i laboratori di vivisezione. I cani non usciranno dall'azienda, che ha l'obbligo di accudirli. Parliamo di scienza. Un motore ad energia atomica. Massimo Durante. Trasformare il calore in elettricità. È in via di sviluppo il cosiddetto motore a energia termica. La ricerca, pubblicata su Nature e coordinata da Joseph Ehremans della Ohio State University di Columbus, si basa su di un effetto magnetico che converte il calore in elettricità, amplificandolo poi migliaia di volte attraverso semiconduttori non magnetici. Massimo Durante, linea allo studio. Le previsioni del tempo per domani, giovedì 19 luglio. Tempo bello e soleggiato per l'intera giornata in quasi tutta Italia. Debole instabilità sulle Alpi, dove si formeranno un po' di nuvole associate tra pomeriggio e sera a brevi e isolati rovesci di pioggia sui rilievi dell'Alto Piemonte, della Lombardia occidentale, dell'Alto Adige e del Friuli. Temperature in generale lieve aumento, tornerà un po' di caldo con le massime pomeridiane per lo più comprese tra 30 e 34 gradi, ma con qualche picco di 35-36. Si attenua il vento al sud, venti per lo più deboli e a regime di brezza. Ci fermiamo qui, nel darvi appuntamento a domani, vi auguro una buona serata. Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak, took my life from negative to positive, I just want y'all to know that, and tonight, let's enjoy life. Stai ascoltando L'Onda in Onda. That's right. Somebody sexy, tell them, hey, give me everything tonight, give me everything tonight, give me everything tonight, give me everything tonight. Take advantage of the night, cause tomorrow I'm off to Dubai to perform for a princess, but tonight, I can make you my queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing, hustlers moving silent, so I'm tiptoeing, so keep blowing, I got it locked up. Lindsay Lohan, put it on my life, baby. I'll make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Cause we might not get tomorrow. slip, I'm gonna fall on top of your girl. What I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I'll make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight, darling. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Cause we might not get tomorrow. Come vi abbiamo preannunciato prima della pubblicità, è con noi qui in diretta Pif. Ciao Pif. Ciao. Ciao, come stai? Benissimo. Finito le riprese. Ho finito le riprese, però ora sono in montaggio, che non so cos'è peggio, perché due stress diversi, però sì, siamo verso la fine, siamo. Beh, allora, chi ti segue su Facebook già lo sa che, insomma, si sono viste le tue foto, insomma, montaggio. Sì, mentre dormivi, molto, mentre dormivi. Sul set ero, la tensione mi faceva svegliare 4:30 di mattina e poi sul set ero assolutamente distrutto, infatti non so se questo si vedrà nel prodotto finale, però sì, ora sono in montaggio e cerco di aggiornare via Facebook la situazione. E stai magari anche più sveglio. Senti, allora parliamo proprio di questo film. Intanto una curiosità di base. Il nome del film. Il nome del film è La mafia uccide solo d'estate. Ma hai copiato Angelino Alfano oppure è lui che ha copiato qui? Qui c'è la tragedia in corso, nel senso che io non ho prove per dire il contrario, lui potrebbe dire la stessa cosa, cioè forse potrei anche provarlo, però alla fine non serve niente, cioè nel senso che io ho il titolo l'abbiamo inventato per caso tipo due anni fa, poi l'anno scorso è uscita la notizia che Angelino Alfano ha sentito il bisogno di scrivere un libro che tutti gli italiani attendevano, che era intitolandolo La mafia uccide d'estate. E ora appunto stabilire chi è inventato per primo ormai non, forse non ha più senso, perché insomma chi arriva prima vince, e ora il dramma in corso è stabilire se andare avanti con questo titolo o cambiarlo. Ora, io faccio fatica, perché come ho detto, come cambiare il nome a tuo figlio quando ha due anni, insomma, come fai? È dura. Fate una syndication con Angelino Alfano magari, no? Ma non lo so, io oppure il suo libro non ho avuto il tempo né la forza di leggerlo, perché volevo capire di che cosa parlava. Credo che parli della sua esperienza da ministro della giustizia. Della giustizia, sì, sì. Insomma, non c'entra proprio niente con il mio film. Io segretamente spero di tenerlo e andare avanti con il mio, perché insomma quello era e quello, con quello vorrei andare avanti, però ora non vediamo cosa succede. Guarda, nella mia mensola ci saranno accanto il tuo film e poi il libro di Angelino Alfano, così questo non fa piacere, non mi fa molto piacere, però sto scherzando, insomma dobbiamo evitare questa associazione di idee. Io spero che da qui a quando esce il film magari la gente un po', insomma, si sia un po' dimenticato il libro. Ma dai, Pif, diciamolo, tanto il libro di Angelino Alfano non l'ha letto nessuno. Ma probabilmente è il classico libro che quelli del PDL hanno comprato comunque. Potrebbe essere una strategia per portare gente del PDL a vedere il film. A vedere il film. Ora magari in altri tempi erano più numerosi, negli ultimi tempi sono diminuiti. Vabbè, ma se vai al centro anziani loro li prendono tutti, come si è visto ieri. Vabbè, basta che pagano, perché gli anziani pagano ridotto, questo è il problema. Sì. Allora, invece no, parliamo proprio sul dettaglio del film. Nuova esperienza per te come regista, perché tu sei già stato dietro la macchina da presa, oltre che nei vari programmi che hai condotto, di cui sei stato autore, ma ma anche di un film con Marco Tullio Giordano che era I 100 passi. Da lì, insomma, a questa esperienza è veramente un nuovo approccio al mondo del cinema. Ma io in realtà l'idea iniziale, quando ho cominciato a lavorare nella televisione, cioè ho cominciato a fare televisione per campare, però l'idea iniziale era quella di fare un film. Poi le cose sono andate meglio al previsto, perché io ho cominciato come autore, poi sono andato in video, insomma sono scattato una serie di meccanismi che mi hanno un po' allontanato da lì il progetto iniziale, che è quello di fare cinema. Ora ho avuto la fortuna di essere, io un po' me la sono cercata, un po' me l'hanno chiamato, perché hanno visto quello che facevo in televisione e ho tirato, appena mi hanno chiesto che film possiamo fare insieme, io ho tirato subito questa idea. E quindi io l'idea è di continuare a fare, che è difficilissimo, però mi piacerebbe fare televisione tra un film e un altro. Una cosa abbastanza ambiziosa, ma l'idea invece, io ho letto da qualche parte, perché tra l'altro sono trapelate pochissime notizie dal set. Sì, questo è un bene. Beh, è un bene, però insomma per noi ci fai abbastanza fremere. L'idea, si vocifera, poi confermacela tu, che è nata dal servizio che hai fatto tu per MTV con il testimone, sì. Sull'associazione antimafia, avevi intervistato Sonia Alfano. In realtà è parzialmente vero, nel senso che io ho girato quella puntata pensando al film, perché già avevo in mente il film. L'idea mi è venuta perché un po' l'idea è venuta quando ero a Milano, sono stato 10 anni a Milano, e capisci, quando tu tenti di spiegare alla gente cos'è la mafia, la gente ancora per ignoranza, perché non ha gli strumenti, immagina ancora il mafioso come Totorina, come il contadinozzo che è un po' rude. Allora quello che tentavo di spiegare era che la mafia era anche Stefano Bontade, che era uno che sapeva il francese, che invece frequentava la Palermo bene, i salotti buoni di Palermo. Allora, insomma, ho pensato che poche volte, forse nessuno, ormai non si è mai fatto raccontare quel periodo là, io però sempre come posso raccontarlo io, quindi cogliendo anche i lati comici o tragicomici. E infatti questo arriveremo a dopo, ma infatti il film è ambientato in che anni? Negli anni 80? Parte dal 69 e finisce nel 92. Quindi un grosso excursus di tutta la storia, esatto, più cruente di quella che la mafia. Esatto, perché diciamo che dal 92 in poi le cose sono obiettivamente cambiate, anche mentalmente il palermitano è cambiato, non poteva più guardare un po' dall'altra parte come abbiamo sempre fatto. Beh, dopo il 92 ne possiamo parlare, insomma, in questi giorni ci sono le inchieste sulla trattativa, sì. Quindi va anche il discorso, si amplierebbe troppo. Sì. Io mi fermo prima, diciamo che ancora, cioè, diciamo mi fermo fino al 92, giusto perché volevo far capire che comunque il cambiamento che c'è stato con il 92. Pensando appunto che il film è destinato, cioè io, appunto come quando lo raccontava i milanesi, anche se cioè è un film pensando a gente che non sa cos'è la mafia, anche se drammaticamente probabilmente un ragazzino palermitano oggi non sa chi è Rocco Chinnici, quindi più o meno è anche per infatti. Ma il film sarà in chiave ironica, drammatica, oppure sarà uno stile, diciamo, film americano, se possiamo definirlo così? L'aspirazione, che poi è un po' l'aspirazione di tantissimi registi, però su questo credo di essere riuscito dalle prime proiezioni, ci è sembrato questo, che siccome la storia è vista attraverso gli occhi di un bambino, e i bambini sono così, colgono il lato comico anche involontario della vita, allora l'aspirazione è che io comunque ti racconto in maniera leggera, divertente, tutto quello che sta succedendo, e poi ti do un cazzotto in pancia, perché poi comunque parliamo di cose serie. Ecco, l'idea è quella, se io riesco a fare questo, passare dal comico al tragico e tornare al comico senza grossi traumi, allora ho vinto. Beh, sei in montaggio, quindi insomma farai sicuramente il tuo dovere. Nel film figurano Claudio Joè, Cristina Capotondi, Teresa Mannino e Ninni Bruschetti, insomma un cast che varia da radicati siciliani a attori insomma di ampio respiro della penisola. Sì, l'idea era di prendere, mi piaceva l'idea di prendere tutti i siciliani, perché essendo palermitano faccio fatica a sentire quella che di fuori che parla in palermitano. L'unica che appunto non è palermitana, che però ha studiato bene, è la Capotondi, perché era adatta per una serie di cose. Però insomma, volevo appunto dar fastidio quando vedo un film e c'è uno che interpreta che sono il siciliano ed è palesemente sbagliato, sì, questa sì, cosa. Ma così come se dovessi girare un film a Bolzano, cercherei attori tutti di Bolzano da quelle parti. Beh sì, poi tu ci hai provato senza successo a sembrare milanese, lo sappiamo. Ma no, ho avuto le mie soddisfazioni. Sì, c'è una bella foto con Umberto in tempi d'oro. Infatti, quando era ancora sul sito della Padania. Come? Quando era ancora sul sito della Padania. Sì, ora ormai stanno rinnegando ingiustamente. Sì, sì. Senti, allora, i protagonisti sono due bambini, Flora e Arturo, quindi sì. Tu interpreti Arturo e insomma la tua esperienza è quella di attore, autore e regista. È normale che hai sonno, Piff, cioè... Io l'ho distrutto. Stai facendo tantissime cose. Ma una cosa sulla sinossi, ce la dici? Il plot del film, come si svolge? Ma guarda, io secondo me rovinavo un po' il piacere di vederlo, cioè nel senso che... Ma poco! Dai! Ma è quello che un retroscena magari. Un retroscena. Sì, su una scena un retroscena, tanto per capire cosa ci troveremo una davanti. Ma che da palermitano mi ha fatto molto piacere, che sono, sai che quando vai a Palermo e giri un film, in qualche modo c'è questo simpatico modo di pagare, non tutti, non pochissimi lo fanno, c'è costretto a in qualche modo in maniera diretta o indiretta a pagare il pizzo. E siccome io mi sono detto che non posso andare in giro a dare pacche sulle spalle alla gente che combatte la mafia, e poi quando tocca a me quando tocca a me pure io devo fare la mia parte, allora posso dire con soddisfazione che abbiamo girato a Palermo 4 settimane e non abbiamo pagato il pizza a nessuno, e abbiamo lavorato soltanto con le persone che volevo e nei posti che volevo, e questo ti fa molto onore. Io ero felicissimo, la troupe non capiva perché ero forse così felice, però sai, come dico sempre, che l'atto illegale a Milano è un conto, l'atto illegale a Palermo è ancora più grave, quindi essere riusciti a non compierlo è una cosa meravigliosa. Beh, poi come dice Formigoni, Milano è un'eccellenza, no? Quindi... È un'eccellenza, in realtà è in realtà è vero che la sanità è migliore, è ottima, però insomma non è così perfetto come vuole far capire quello di lui. Senti, Piff, in chiusura, visto che insomma già stiamo dilungandoci troppo su questa intervista, quando uscirà il film? Bella domanda. Dove in realtà, sei in montaggio da me. A settembre sarà pronto, poi quando credo che ci scattino una serie di meccanismi, ragionamenti che credo, temo che vadano oltre alla mia volontà, ovviamente. L'idea è di partecipare a qualche festival, se viene come un film adatto, partecipare a qualche festival, possibilmente all'estero, perché appunto è un po' pensato per chi non conosce la mafia, e poi se lo prende, chi lo prende si decide quando uscire, però insomma diciamo che è ancora è presto dirlo. Mai a parte, quindi il prossimo anno. mai ho pensato che sfiga, dopo 40 anni, aspettando 40 sì, anni che sì. Fa un film, metti Sanno Ragioni Maia, porca sei fregato, Piff. Sanno Ragioni Maia il film non lo vedrà mai nessuno. Senti, quindi allora faccio la vera in anteprima, così lo vediamo, magari facciamo un'altra intervista proprio quando uscirà il film e ne parliamo bene. Piff, noi ti ringraziamo, grazie per questa intervista, in bocca al lupo per il montaggio, insomma, complimenti ancora per il film. Io quando avremo occasione di vederlo, ne saremo coscienti, ma sono sicuro che il tuo lavoro, insomma, conoscendoti, seguendoti da tempo, sarà sicuramente un bellissimo film. Ti ringrazio per la fiducia, grazie. Era Piff, noi ci ascoltiamo un pezzo, ci sentiamo subito dopo, sempre con Radio Panorama. Go back to your habitat. Momenti importanti in un ambiente particolarmente gradevole. Scopritelo presso la sala ricevimenti Moby Dick, ampie e accoglienti sale immerse nel verde, ideali per festeggiare matrimoni, prime comunioni e cerimonie in genere, ma anche per organizzare congressi. Un incontro straordinario fra raffinata eleganza e ottima cucina, con piatti della tradizione locale e nazionale. Si effettuano anche buffet nella nuova Villa Roberta. Prenota il tuo ricevimento presso Moby Dick, strada statale 113, contrada Corte Vecchia a Termini Imerese. Telefono 091 814 0048, con ampio parcheggio. Moby Dick sarà indimenticabile. Panorama. Sai, mi piacerebbe trovare un'idea davvero originale per un regalo. Ah, siamo in vena di acquisti. Eh già, le occasioni non mancano. Facciamo così, io ti do una dritta su un negozio che fa per te. E tu? E io ti faccio un regalino. Che ragazzo perspicace, ti adoro. Allora andiamo da cose di casa. Elettrodomestici, anche da incasso. TV Color, Hi-Fi, vasta gamma di aspirapolvere. Accessori per la casa, coltelleria professionale Sanelli e stupendi articoli da regalo. Inoltre, da cose di casa trovi esclusiva bigiotteria in argento ed insieme un affascinante angolo dedicato agli articoli etnici per scoprire le particolari atmosfere dei paesi esotici. Cose di casa, via Alcide De Gasperi a Lascari. Telefono 0921 911 441. E adesso anche a Cefalù in via Gioieni 8. Telefono 0921 92 30 92. Vieni e compra Panorama. La soluzione per avere sempre la barca al top? Io l'ho trovata, a pochi chilometri da Cefalù, vicino al porto di Termini Imerese. Si chiama Artemar. Artemar riesce ad offrirti tutti i servizi di cui hai bisogno tu e la tua barca. Ormeggio fino a 20 metri di lunghezza fuori tutto. Invernamento in piazzali per mezzi fino a 24 metri. Alaggio, varo e movimentazione con carrello idraulico fino a 35 tonnellate. E poi trattamenti antiosmosi, verniciatura, falegnameria, elettronica, officina. Tutto con personale altamente qualificato. Artemar, inoltre, è concessionario e assistenza autorizzata dei principali marchi di motori marini. Suzuki, Yamaha, Mercruiser, Volvo, Lombardini Marina. Passa da noi, ti illustreremo tutti i nostri servizi. Artemar, in Contrada Grisone, a Termini Imerese. Info allo 091 811 1890. Artemar, la soluzione giusta per avere sempre la barca al top. Panorama. Per le vostre vacanze in assoluta serenità, Borgo San Francesco, antico borgo ristrutturato immerso tra i verdi Monti Nebrodi ad una quota di 300 metri sul livello del mare. E stiamo solo 5 minuti dal centro abitato e dalla spiaggia. L'ideale per il riposo e lo svago, con piscina ed accogliente ristorante per palati raffinati dove potrai gustare i pregiati e tipici piatti siciliani. Eleganti appartamenti completi di ogni comfort e circondati dalla natura. Ci trovate a Gioiosa Marea, in Contrada San Francesco, percorrendo la strada comunale che costeggia il torrente Zappardino. Per maggiori informazioni visitate il sito borgosanfrancesco.it o telefonate allo 0941 38 493. Borgo San Francesco, dove i sogni diventano realtà. Some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody here I'm longer Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. Che bello rientrare con questo pezzo. Allora, rieccovi sempre qui con noi, con L'Onda in Onda, agli studi di Radio Panorama. E fra poco avremo l'intervista Il Sogno, Il Veleno. Dopo aver ascoltato la bellissima intervista di Piff, che insomma ci ha tenuto compagnia per ben 14 minuti, è stato così gentile da restare con noi in diretta. Bene, allora, per chi volesse sapere cosa fare questa sera, dopo ovviamente aver ascoltato tutta la nostra trasmissione, tutta, verremo casa per casa e chiunque non ha ascoltato qualche minuto prenderà randellate sulle gengive. Mamma mia, guarda, tu hai la voce che va sempre peggiorando, è qualcosa di terribile. Mi sembra che l'hai presa tu la randellata nelle gengive. No, ho presa nella diettente in gola, comunque, dai. Allora, io vi consiglio il trio Che Salsa Live. A parte che calza. Che calza. Cioè, si chiama il trio Che Calza, perché maggio sarà la calza. Perché? E tu l'hai chiamato Che Salsa. Ho invertito la S. Vabbè. Perché la band è composta da Angelo, Giacomo alias Max Power e Viola. Però io vorrei dire che nel sito in cui abbiamo visto questa notizia degli eventi che Ballarm, noi salutiamo tra l'altro gli amici di Ballarm, sì. C'è scritto Giacomo alias Max Power tromba viola. Cioè, nel senso, cioè, Max Power alla tromba e poi Viola alle percussioni. No, invece lui si tromba tutto rispetto viola. Per Viola, insomma. Propone cover band pop latin rock degli anni 50 ai giorni nostri. Andrea, guarda il nostro regista che cerca i nomi più difficili da farti leggere. Sì. Io ho letto soltanto Maurizio Sdegno. Sì, che ha assunto questo soprannome dopo aver sentito come Andrea legge le notizie di Ballarm. Si chiamava Maurizio Gioia e è diventato Maurizio Sdegno. Sì, sì, va bene, va bene. Andrea, sai cosa vuol dire Ballarm? Certo, balla sull'allarme, no? Vuol dire Palermo in arabo. Ah, Palermo in arabo, lo sapevo. Senti, allora, io vorrei far notare ai nostri ascoltatori che manca dalla scorsa settimana un personaggio veramente eclettico, diciamo. Eclettico. Ah, lui non c'era la scorsa settimana? Lui c'era la scorsa settimana. Ah, però è mancato dalla scorsa settimana, cioè manca, cioè, i nostri. Chissà dov'è, perché chissà so che doveva partire. Lui, diciamolo, è un ex medico, nutrizionista, che è stato cacciato via dall'albo dei medici per aver, insomma, ucciso un paziente malato di ipertensione con la ricetta dell'anduia calabrese. Lui è appunto di origini calabre e da allora, per lavare l'onta, mi piace dirlo sempre questo, lavare l'onta, l'onta in onta, sì. Lui gira per tutte le radio d'Italia, del mondo, d'Europa, dando le sue ricette calabresi, insomma, un po' a modo suo. Quindi mi raccomando, carta e penna, pronti a scrivere, perché sta per arrivare Tony Scopelliti, che non potremo sentire presto. Oggi è bellissimo. Sì, per, cioè, un problema di regia. Ma non vi preoccupate, perché Tony Scopelliti sarà qui a breve. Non vi preoccupate, voi rimanete in diretta. Io direi anzi di provare a vedere se è già in studio. Tony? Lui si fa la sigla da solo, incredibile. Buonasera, Tony Scopelliti. Era un poco difficile fare tutte le cose insieme, però ci provavo. Incredibile, Tony Scopelliti. Sì, buonasera. Bene, bene, mi trovo a Taormina. Si trova anche lei a Taormina? Sì. Ma come fa? Ma sei in studio da noi? Tutti a Taormina. Decida dov'è. Allora, fino a un'ora fa era a Taormina e volai in studio da voi. Ah. Ma siccome c'è tornata stasera, io dico sempre che sogno diciamo, sono per in vacanza a Taormina. È un present continuous quello, sì, tuo. Incredibile. Un present continuous. Sì, il present continuous, no? Sì, però vorrei sentire la carata tarantella, quella originale. Ci scusiamo gli ascoltatori, questo è Tony Scopelliti, abbiamo avuto un piccolo intoppo qui in regia, cioè lì in regia hanno avuto un piccolo intoppo. È la tarantella classica di Tony, doveva partire adesso. Meno male che Tony era già qui in studio con noi, anche se lui si... Esatto, mi fici pure in casa, mi fici pure la sigla in casa. Addirittura. Sì, poco fa quando mi fici per sì, sì, l'abbiamo visto. Ormai lei è proprio affezionata a questa tarantella. Sono andato a Taormina perché c'è la sagra del dolce. Cosa c'è? La sagra del dolce. Del dolce? Esatto. A Taormina? Sì. Incredibile. E sono andato a cucinare una spiaggia di Taormina. Ah, ma lei ha cucinato, vuol dirmi che lei ha cucinato un dolce calabro a Taormina alla sagra del dolce. Esatto. E che dolce? Allora, ci dà la ricetta oggi, certo, proprio di un dolce. Basta primi, basta secondi. Cosa? Un attimo. Dicevo, lei la ricetta la darà. Prima mi faccia capire come si chiama. Cassareggio Chinolil. Come? Cassareggio o Chinolil. Io no, no, difficoltà. Io, voi audioascoltatori dovreste vedere come è scritto Chinulili. Cassaretti o Chinulili? Ah, Cassaretto Chinulil. Lo dice, tipo come se fosse una cosa famosa. Comunque, la sua ricetta è sempre famosa. Ingredienti. Per la spiaggia di Mazzarò, diciamo, su Taormina. Certo. Esatto. Allora, la spiaggia è popolata. Chi era Don Mazzarò? Don Mazzarò. Chi dura la canzone di Caparezza? No. È del romanzo di Verga. Ah, sì. Romanzo porno. No. Verga. No, la Ma roba. Ma chi te sverga? Quella è Sverga. La roba quella che ha rubato? No, no, il romanzo. Ah, la roba di Verga. Sì, bravo, sì. Non lo sapevo. Bene. Allora, ci vuole una mezza tonnellata di farina. Certo, per quante persone? A spiaggia. Ah, alla spiaggia intera. Cioè. Hanno assaggiare tutte, un po' con l'uno. Cioè. Poi ci vanno 400 uova intere, meno un albume. Quindi 399 uova. Un albume, non lo so, chi lo mangia questo albume? Il primo che assaggia. Ah, il primo che assaggia. Perché chi doveva dare un voto alla ricetta, ah, giusto, deve avere questo retrogusto di albume. Esatto, poi ci vuole ovviamente una vasca d'olio. Certo. Oppure, siccome se mi spiace, sapi i piscini che devo gonfiabili? Sì. Perfetto. Ah, ho usato una piscina gonfiabile. Esatto, esatto. Poi ci vuole un mestolone di zucchero. Certo. Scannella in polvere. Come? Scannella? Scannella. Chi dura i termini? Ah, sì, sì, sì, sì. Quindi dovete cremarlo, insomma. Sì, sì, sì. Cannella in polvere. E poi ci vuole un bel bicchierone di anice. Un bicchierone intero di anice? Grande. Grande, quanto grande? Ma proprio grande. Tipo un secchiello, diciamo. Sì, un secchio. Un secchiello dei bambini. Preparate la pasta, stendete la sfoglia piuttosto sottile e tagliatela con la rotella seguendo l'orlo. Scopelliti nel cuore. Mamma mia, sogno emozionante. È un messaggio che è arrivato. Scopelliti nel cuore. Allora, preparate la pasta, stendete la sfoglia piuttosto sottile e tagliatela con la rotella seguendo l'orlo di un piattino di caffè. Pausa. Avete scritto? Mi raccomando, io spero di sì. Poggiato su di essa, otterrete così una serie di piccole dischi su ognuno, quale mettere una cucchiaiata della crema ottenuta amalgamando perfettamente gli ingredienti per il ripieno. Scritto? Sì. Piegate i dischi perché io lo dico, io lo scrivo. Piegate. Certo. Anche lei scrive mentre parla, signor in contemporanea. Per vedere se i nostri ascoltatori riescono a seguirla. Esatto, se scrivo in calabrese, se c'è una chatata, ci faccio pure la nuvoletta. Allora, piegate i dischi, potete ottenere delle mezzelune. Ovviamente. Ovviamente, se c'è un lupo in casa, potete fare le lune delle piene. Delle mezzelune. No, no, le lune piene. Ah, le lune piene, certo, sì. Certo. Fissate nei bordi per tanto tempo, la vedo attaneare. Fissatene proprio con lo sguardo i bordi, certo. Cioè, guardate i bordi di queste mezzelune che avete fatto. Sì. Sì. Mi sento male perché, devono comunque avere un'empatia, sì, queste mezzelune con lei. Sì, ma un meno che niente comunque. No, perché ha fissato troppo le mezzelune, sì, esatto, e quindi non vede più niente. Esatto. Poi dopo che le avete fissate, appena non vedete bene, sai come i giochi di Facebook? Guardate il muro e comparirà per magia. Sì, cosa? Il dolce compare per magia. O la spiaggia, potete guardare. Basta che avevo uno sfondo neutro. Bagnate con l'albume d'uovo con la pressione delle dita. Un attimo, quale albume d'uovo? Perché uno se l'è mangiato. A uno dei 399. Esatto. Con la pressione dell'olio friggetele in olio d'oliva bollente per essere da cuocere. Spolverate con zucchero e scannella. Per il ripieno si può usare con ottimi salvati la marmellata d'uva. Avete scritto tutto? Io spero di sì. Io sì. Lui era Tony Scopelliti. Ci sentiamo un pezzo e ci rivediamo dopo. Aspetta. Ci sentiamo un pezzo che tra l'altro è bello, perché mi hai detto pure tu mettimi un pezzo bello. Sì, infatti ci ascoltiamo brusco e torniamo subito dopo che avremo un'intervista. Il sogno, il veleno. Giorno tu sei per me, scusa se non te lo dico spesso, ma io lo so, l'amore che ci metti in ciò che fai, in tutte le attenzioni che mi dai, tu sai bene io chi sono e io so chi sei, e so che se ti perdessi mi perderei, ti coccolo, stritolo e ti stringerei a me in eterno, il mondo gira ma tu sei sempre il punto fermo, stiamo insieme e poi andrò all'inferno, se ancora non mi arrendo per il tuo sostegno sai, ti ringrazio perché vuoi la mia felicità, per la forza che mi dai nelle difficoltà, spero di ridarti indietro anche solo la metà, dell'amore che ricevo mi basterebbe già, ma molti non ci capiscono, perché si amano ma non si uniscono, no, hanno gli anelli, molti convivono, però non ridono, amore non so, se resto vivo senza te, ma voglio dirti grazie sai perché, per quello quello che ogni giorno tu fai per me. Scusa se non te l'ho detto spesso, ma io lo so, l'amore che ci metti, ciò che fai, nelle attenzioni che mi dai. Tu sai bene io chi sono e io so chi sei, e so che se ti perdessi mi perderei. So che mi apprezzi, grazie che mi rispetti, anche se non accetti ancora tutti i difetti. Ma per quello avremo tempo finché saremo vecchi. Ci sta che mi bacchetti quando sei minocetti. Per i piatti non fate, o perché se ti metti a letto con il tuo pigiama, con la faccia di Betty, boh, ti incazzi per i calzini infetti. Tu se ti ci metti, tu poi non la smetti più. Nei battibecchi tu mi sottometti, tu però in effetti con i tuoi modi schietti esprimi concetti corretti, perfetti. Ti ringrazio perché in fondo così un po' mi correggi tu. Ma dopo gli scherzi, dai bacetti a carezza, sia al cuore a pezzi e chiami il tuo carattezio. Non ti lascerò mai a piedi, bimba, se mi prometti che saremo sempre il primo dei tuoi progetti. Amore, non so se resto vivo senza te, ma voglio dirti grazie, sai perché? Per quello che ogni giorno tu sei per me. Scusa se non te lo dico spesso, ma io lo so, l'amore che ci metti in ciò che fai, in tutte le attenzioni che mi dai. Tu sai bene io chi sono e io so chi sei, e so che se ti perdessi mi perderei. Ma molti non ci capiscono perché si amano, ma non si uniscono, no. Hanno gli anelli, molti convivono, ma non ridono. Amore, non so se resto vivo senza te, ma voglio dirti grazie, sai perché? Per quello che ogni giorno tu sei per me. Scusa se non te lo dico spesso, ma io lo so, l'amore che ci metti in ciò che fai, in tutte le attenzioni che mi dai. Tu sai bene io chi sono e io so chi sei, e so che se ti perdessi mi perderei. Amore, non so, di Brusco, e noi rientriamo in diretta come vi abbiamo preannunciato. Vabbè, io questa la dedico alla mia ragazza. Va bene, va bene, dedichiamola a ognuno, a chi vuole. Come abbiamo preannunciato prima della pubblicità, abbiamo qui con noi in diretta Alex del Sogno e il Veleno. Ciao Alex, benvenuto. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Come stai? Bene, bene. Perché tutto lo dici con quella voce triste? Bene, bene. Alex, ci sei? Sì. Ah, ti sentiamo. Allora, Alex, sei, insomma, il vostro disco, l'abbiamo ascoltato, un disco molto bello, ci ha fatto veramente piacere ascoltarlo, averlo qui con noi in radio. Ti volevo chiedere, perché il Sogno e il Veleno? Ma non è stato un nome deciso per qualche motivo personale. È stato mi piaceva l'accoppiata di questi due nomi, che descrivono, insomma, credo che descrivano un po' lo spirito di quello che poi è stato il disco, di quello che poi è quello che faccio. Due mondi diversi, cioè, che cerco di mettere insieme: da un lato un mondo più sognante, dall'altro un mondo più malinconico, se vogliamo, anche più cattivo, tra virgolette, sempre tra virgolette. Senti, questo disco è pieno di citazioni cinematografiche. Ci puoi dire quali e perché ti hanno ispirato proprio le citazioni cinematografiche per le tue canzoni? Ma il cinema è una mia passione fortissima da sempre, quindi inevitabilmente poi è finito tutto anche dentro il disco. Nello specifico, le citazioni cinematografiche nel disco sono il tram, che è un episodio di Dario Argento del 73, non è un vero e proprio film, è un mediometraggio che Dario Argento diresse per la televisione, per la Rai. Scusa, il nostro collega qui fa sempre rumore. C'è Nouvelle Vague, che vabbè, è la citazione è abbastanza esplicita, non si può parlare neanche quasi di citazione, è proprio un omaggio a quel movimento cinematografico francese che a me piace moltissimo. Senti, ci sono molte citazioni poi a Pasolini. Stavo dicendo adesso, poi c'è Come ci d'amore che diciamo mette insieme sia da una parte la citazione, diciamo, un po' l'ispirazione cinematografica di tutto il disco, e sia dall'altra anche la figura di Pasolini, a cui è dedicato tutto l'album. Beh, insomma, un bel impegno per fare delle canzoni. Sì, infatti, delle canzoni con... Infatti il peso, diciamo, sul disco è abbastanza grande. Poi non so se sono riuscito a a mantenere le premesse, però avevo questi, li ho comunque sempre questi riferimenti, con l'occasione del disco ho voluto omaggiarli. Senti, la canzone a cui ti senti più legato per di questo album? La canzone a cui mi sento più legato probabilmente è Paese Sera, perché descrive, no, ecco, nonostante il singolo poi sia stato un altro, ma il singolo è stato scelto per altre questioni, però ecco, se dovessi dire una canzone del disco a cui mi sento più legato è sicuramente Paese Sera. E come mai proprio Paese Sera, Alex? Ma perché dal punto di vista musicale ha un ritornello secondo me molto riuscito, dall'altro sono legato molto al testo, secondo me è il miglior testo del disco, è un testo che descrive in modo un po' malinconico da una parte e dall'altro anche con una punta di, non so, di nostalgia, di un'Italia che probabilmente non c'è più. E quindi siccome anche qui torna l'immaginario cinematografico, pur non essendoci diciamo riferimenti strettamente precisi a film eccetera, viene citato Fellini, ma molto generico, più per dare una collocazione storica al tutto, però ecco, sì, è un testo a cui sono molto legato. Senti, noi ci stiamo occupando già da diverso tempo di questa rassegna indie rock, cioè siamo abbastanza gruppi anche emergenti sulla scena indie rock italiana. Pensi che il mercato indie rock sia in evoluzione, in ascesa in Italia, oppure rimane sempre un mercato di nicchia finché non c'è qualcuno veramente che ci mette il cuore e fa alzare il livello di attenzione sulle canzoni che vengono prodotte? Ma secondo me al distesso degli anni 90, dove ovviamente la scena indipendente rock italiana era molto circoscritta, pur essendoci i gruppi che poi si sono rivelati gruppi importantissimi per la musica italiana, però era una scena diciamo un po' circoscritta, aveva il suo pubblico ben preciso. Adesso diciamo, sto da qualche anno a questa parte, sto notando una maggiore apertura anche da parte di un pubblico che probabilmente prima non avrebbe mai ascoltato determinati gruppi. Adesso questo non so se deriva dal fatto che sono stati i gruppi a venire incontro al gusto. Beh, il mercato che viene incontro anche ai gruppi, e quindi... Sì, io credo, sì, non credo che siano stati i gruppi a piegarsi. Sono, secondo me sì, anche con l'aiuto, con il cambiamento che internet ha portato a esatto. C'è un modo diverso di fruire la musica, e questo ha portato anche a una maggiore fruizione di quella che prima era una scena di nicchia. Senti, tu sei in tour in questo momento o farai un tour? Sono, diciamo, non c'è un vero e proprio tour in maniera, diciamo, ufficiale, in maniera con delle date molto serrate, però ci sono diverse date che ho fatto e diverse date che devono venire in Abruzzo o anche, diciamo, fuori. Sono stato un paio di volte in Puglia, a Bari, sono state date molto belle. Prossimamente, tra due settimane, suonerò al Soundlab Festival, che è un festival che si organizzerà qui in Abruzzo, molto importante. Ci sarà anche oltre Classic Education di Martino, ci saranno anche molti artisti stranieri, tra cui il chitarrista cofondatore di Semisius, Tom Moore. Non ho capito, chi ci sarà? Ci sarà Tarton Moore, il chitarrista cofondatore di Sonic Youth, quindi è un festival a cui farà molto piacere partecipare. Va bene, senti, siamo quasi in la pubblicità incombe, diciamo, progetti per il futuro velocemente e poi mandiamo la pubblicità il tuo pezzo Nouvelle Vogue. Progetti per il futuro molto, molto velocemente farà portare il disco in giro il più possibile, soprattutto da settembre in poi. Poi ci sono tanti pezzi nuovi in cantiere e spero di fare un disco nuovo al più presto. Va bene, noi te l'auguriamo, allora in bocca al lupo Alex, e ci ascoltiamo del Sogno e il Veleno, Nouvelle Vogue. Ciao a tutti. Ciao. Guardo indietro pensando che brutto questo mio tempo, gli occhiali a posto, il vestito giusto, non sono fatti per me. E guardo in tasca cercando il senso giusto del mondo, l'anello al dito, non ho capito ancora cosa voglio per me. Questa è Nouvelle Vague, questa è Nouvelle Vague, questa è Nouvelle Vague, la mia Nouvelle Vague. Questa è Nouvelle Vague, questa è Nouvelle Vague, questa è la mia Nouvelle Vague. Cammino a volte cantando di come sia bello il mio mondo, non faccio niente, non mi lamento, mi piace ma non durerà. E passo i miei giorni guardando dei film che neanche comprendo, Godard, Truffaut, Rivette, Chabrol, Resnais, Hiroshima, Mon Amour. Questa è Nouvelle Vague, questa è Nouvelle Vague, questa è Nouvelle Vague, la mia Nouvelle Vague. Questa è Nouvelle Vague, questa è Nouvelle Vague, questa è la mia Nouvelle Vague. La storia, il mito, la fantasia, la favola. Il più bel sole di Sicilia, il mare limpido e incontaminato, il fuoco di Stromboli e di Vulcano, il bianco accecante della Pomice, il nero fantasmagorico dell'Ossidiana, la cordialità antica della gente, tramonti indescrivibili, emozioni forti, irripetibili. Se è questo che cerchi, vieni al Residence Mistral, Marina Garibaldi 23 Canneto, la più bella spiaggia dell'isola di Lipari. Il Residence Mistral ti offre soluzioni per la famiglia in appartamenti mono, bilo e trilo dotati di aria condizionata, angolo cottura attrezzato, microonde, TV sat e tutti comfort. Residence Mistral sulla spiaggia di Canneto a 10 metri dal mare, con vista su Panarea e Stromboli. Telefono 090 98 80 683. Visitate il sito www.mistralresidence.it. Abbiamo pensato proprio a tutto, non solo a farti assaporare il cibo migliore, ma anche a servirtelo in una location davvero incantevole e a ospitarti in camere dotate di ogni comfort. Bill'Ombrosa è così sempre attenta a tutte le esigenze dei suoi clienti, perché quello che ci sta a cuore siete voi e la vostra soddisfazione. Agriturismo Bill'Ombrosa, la cucina tipica rurale con prodotti rigorosamente locali e una magnifica vista sulle Eolie e sui Nebrodi. Vi aspettiamo sulla strada provinciale 155, Contrada Bufana, a San Salvatore di Fitalia. Info e prenotazioni al 339 64 33 651, oppure allo 0941 430891. Visitate il sito www.villombrosa.it. Panorama. Se chiami il 320 880 92 62, l'erba del tuo vicino non sarà più la più bella. 320 880 92 62, risponde Giuseppe Fonte, che saprà occuparsi con grande professionalità della manutenzione di parchi e giardini, con potatura e tratturazione di ulivi e frutteti, e ancora decespugliamento e parafuoco. Giuseppe Fonte si occupa anche di movimento terra con mini escavatore. Inoltre, gestione spazi verdi, privati, pubblici e condominiali. Se chiami il 320 880 92 62, troveremo la soluzione ideale alle tue esigenze, anche con diserbazione e disinfestazione di giardini, vialetti, cortili e strade. Giuseppe Fonte a Cefalù, telefono 320 880 92 62, email fontefonte@live.it. Giuseppe Fonte, la soluzione ideale per il tuo giardino. spot. La ditta New System è lieta di presentare la nuova linea di tende da sole Tempotest Parà. Alcuni esempi in promozione giugno-luglio. Tenda modello balcone 240x260 a soli 240 euro. Tenda modello con cassonetto a 320 euro. Inoltre zanzariera per ogni esigenza di apertura, porta o finestra a 49 euro al metro quadro. E ancora tende alla veneziana rullo, plissé e verticali. In più gazebi e ombrelloni per piccoli e grandi coperture. Soluzioni per coperture, pergole, infissi in alluminio, PVC e legno alluminio. New System di Purpura Gilberto. Showroom in via Maestro Pintorno 7779 a Cefalù. Contattaci o prenota un preventivo gratuito anche al tuo domicilio telefonando allo 0921 82 04 37. Panorama. Se passi da Valentina, trovi il caffè più buono e per tutti i gusti. Marocchino, caffè alla Nutella e anche il delizioso caffè al pistacchio. Bar Caffetteria Valentina Woman's Café, il locale ideale per ogni pausa golosa. Prova la trincheria, il wine bar e se devi festeggiare, c'è servizio catering open bar per ogni tuo evento con i fantasiosi cocktail preparato dal nostro barman Ives. Se invece devi organizzare il giorno più bello della tua vita, ti offriamo un impeccabile servizio catering con brindisi per gli sposi e open bar dopo cena. Bar Caffetteria Valentina Woman's Café e inoltre gustosa panineria anche con servizio a domicilio. Vieni a trovarci in Corso Umberto e Margherita 114 a Termine Imerese. Info 331 970 40 13. Valentina Woman's Café, il locale fashion dal design unico. Panorama. Ho invitato gli amici. Questo weekend ci tuffiamo nella natura e ci godiamo la vita. Bene Marco, e allora dove ci porti? All'agriturismo Arione. Ottima idea, bravo. Agriturismo Arione. Di giorno, escursioni a cavallo nel Parco delle Madonie, con possibilità di pernottamento. Di sera, magici momenti in musica con maestri di chitarra, fisarmonica, violino e sax. E non dimentichiamoci la cosa più buona, la cucina. Certo, un ristorante da favola con prodotti tipici stagionali, oppure con la pizza cotta nel forno a legna. Arione è ottimo anche per festeggiare comunioni, cresime, matrimoni. Informatevi sulle tante proposte. Agriturismo Arione, a 4 km da Lascari, in contrada Pozzetti, sulla strada provinciale 128 Collesano Lascari al chilometro 11.700. Prenotate subito al 329 49 24 269. Agriturismo Arione. Ottima idea. Panorama. Nell'incantevole cornice mediterranea di Baia Marinello ad Oliveri sorge il villaggio turistico Marinello, dove trovate l'esclusivo ristorante, un luogo unico, affascinante, affacciato sul mare, dove gustare nella suggestiva terrazza il meglio della cucina tipica siciliana, il pesce sempre fresco di giornata e, se vi va, un'ottima pizza. Ristorante Villaggio Marinello. Infoline e prenotazioni allo 0941 31 30 00. Online www.villaggiomarinello.it. Villaggio Marinello, sapori mediterranei. Sono le ore 20 e 4 minuti. Oh, you love it like I love it, and you feel what I feel inside, feel what I feel. If you want it like I want it, then baby, let's get it tonight. If you feel it, say hey. Il Bilbilò. Io sono ancora emozionato dall'intervista con Alex. Speriamo di risentirvi presto. Sì, insomma, un'intervista veramente interessante. Viva. Devo dire. Dica a voi. Viva. Cioè, viva la Madonna. No. Non è l'8 dicembre. No, dico, io sono ancora proprio preso. Viva. Come vitalità, stai? Come stai, no? Andrea? Piena di vitalità. Come stai? Bene. Andrea, perché lo dici così? Cioè. Andrea, ci sei? Per favore. Sì. Ah, ok. Allora, era un remake. Dai, volevo leggere una notizia interessante. Ti salutiamo, Alex, però riprenditi. Barra Franca. Ma perché ridi? È una cosa tristissima. Perché sei ride? Cioè, questo, il riprenditi di Andrea Massaro è come il mangiata. Sì, esatto. Allora, Barra Franca rissa a colpi di bastone. Quattro... Ma perché ride? Ma lui arriva a un punto che poi non ce la fa. Non più. Ce la fa. Quattro romeni finiscono in cella. E dov'è da ridere queste notizie? Lui ha visto la foto. La foto. E il nome? Chi è? Claudine Calin. Ti fa ridere. Ma è un. Ma l'hanno arrestato. Ma è un criminale. Sarà... Ma ma perché ridi? Oggi abbiamo arrestato a Claudine Catina. È un esatto, compa, è un prestigiatore romeno. Guarda la faccia, ti prego. Quello con i baffi. Ma non la possono vedere? No, ma la vedere il regista. Ma sembra il parente di Dracula. Ma chiamiamo Claudine Calin. No, magari tardi. Un'altra volta, sì. Altra sì. Notizia. Ma no, perché stai dando questo? Ma sono notizie. Diamo un po' provincia di Enna, pa. Buche e insidie all'incrocio con via Fasulo a Piazza Armerina. Ma non fa ridere queste notizie. A me sì. Pensare che si usi dell'inchiostro per scrivere che ci sono delle buche in via. Ma guarda che è importante, cioè lo dovremmo scrivere pure per termini merese. Lui non ride merese. Per la notizia in sé, ride per il fatto che le scrivo. No, ride per i baffi di Claudine Claudin. Si sta schiaffeggiando da solo. È qualcosa di impressionante. Vabbè ragazzi, io direi che la puntata deve andare avanti. Io vi giuro non vedo l'ora di avere lo streaming video. Sì, perché, no, poi cioè... si muove, fa un casino. Antonio, oggi questa puntata tu non dovevi farla, mi sa. Cioè dovevi stare a casa perché... Perché? Perché ti stai rovinando la salute, stai ridendo troppo. Ma io sto male, un po' bisogno di riprendermi. Ho capito. Sì. Senti, allora, io direi che possiamo anche annunciare un ospite che è un po' che manca, cioè nel senso da una settimana. Non c'erano altre occasioni, Andrea. Manca da una settimana, quindi è già un bel po' che manca sì. Ai nostri radioascoltatori. Lui è un personaggio che viene da... lo vuoi dire tu da dove viene? viene da Regalcioffoli, in provincia di Roccapalungba. Ridente Roccaforte, una delle ultime rimaste al mondo, non solo in Italia o in Europa, del vero comunismo. E detto, ho sentito un blu in sottofondo. No, non ti sa. Ma sì. Vabbè. E beh, lui ci testimonia, come sempre ogni settimana, i veri valori del comunismo. Ci racconta come evolve la sua voglia di diramare questi valori attraverso film, attraverso la sua credenza. Ricordiamo che lui è il successore. Attraverso la sua credenza, il suo comodino, anche il suo cassettone. Non è un problema. Ho detto credenza. Vabbè. Non ce la facciamo proprio. Ricordiamo che lui rappresenta, non voglio dirlo perché lo dirà lui, uno storico del comunismo di Roccapalumba, ed è con piacere quindi che diamo il benvenuto a Fidelio Cusimano. Benvenuto Fidelio, ciao. Buonasera. Scusa buonasera. Per la credenza. Buonasera, non si preoccupi, voi dell'etere lavorate tanto e capisco che siete stanchi. Vedo che lei ride, nonostante io sono l'esponente più grande del comunismo. Sì. Non rido perché penso a mio nonno che mi diceva che il comunismo era scomparso. Suo nonno, come si chiamava suo nonno? Antonino. Ah, non Claudine. No. Claudine Catin. Lei conosce Claudine Calin? Calin, sì, fa? Lo conosciamo. È stato membro onorario del collettivo Giancarlo Mattel, il collettivo universitario, ovviamente, di cui noi facciamo parte. Quindi lei ci può raccontare i motivi di questa rissa barra franca, magari nata per motivi di ideologie politiche? No, guardi, questa rissa non posso perché c'è il segreto di Stato di Roccapalungba. Ah, c'è uno Stato, cioè Roccapalungba ormai ha assunto... È uno Stato, sì, uno Stato a parte, okay. Ovviamente Regalcioffoli controlla l'amministrazione Roccapalungba. È più piccolo o più grande di San Marino, per esempio? No, è più piccolo ovviamente di San Marino, inteso, cioè Roccapalungba, mentre ovviamente Regalcioffoli si è estesa quasi a conquistare tutta la Sicilia. Le mire sono quindi molto alte anche. Sì, sì, sì, le mire sono altissime. Noi vogliamo invitare ovviamente chi ci ascolta a far parte del collettivo Giancarlo Mattello, collettivo universitario, no? Nell'università di Palermo, di questo stato estero, Palermo. Sì, stato estero, sì. Sì, in questo stato estero, diciamo, del capitalismo. Lei pensa che Palermo sia una roccaforte capitalista? Sì, ovviamente, perché Regalcioffoli è una roccaforte comunista. E con chi siete gemellati? Scusate. Noi siamo gemellati con l'URSS. E basta. Ricordiamo URSS sempre, significa? Uniti, russi, sempre, senza. Sempre. Sempre l'altra volta era senza sovietici. Era senza senso. Senza senso. O sempre saremo. Comunque, sempre, invece sempre, sì. Sempre essere più. Perché sempre, ridere? Sempre. Se è una cosa importante. Non ma io non rido mai. Noi è proibito ridere. Io volevo solamente, ovviamente, dire a tutti quelli che ci ascoltano sempre su questa radio di far parte di questo collettivo e di venire a vedere i nostri film neorealisti che noi stiamo lanciando al nostro cineforum. E io e Bruma siamo molto, molto ansimanti nel voler ansimanti. Scoprire. Sì. Ma lei come cazzo parla questa oggi, sera? Ansimante. Non siamo ansiosi, noi siamo ansimanti. Sì. Cioè, quindi rifai sentire quello che... Perché vogliamo scoprire il titolo del film che presenterà quando? Stasera? Questa sera ovviamente al Cineforum. Quindi non prendete impegno, se li avete cancellateli perché c'è qualcosa di più importante da fare. No, non c'è niente di più importante da fare a parte venire a vedere il nostro infatti, film. Ho capito. Dicevo proprio che la cosa più importante da fare era andare a vedere il film. Il nostro bellissimo film neorealista. Qual è il titolo? Nel sombrero, falce e martello, son con te. È un film spagnolo. Ma è di Lina Wertmüller, perché è il titolo no. Lungo? No. È un film spagnolo, il sì. Sottotitolo è troppo lungo per dirlo, in realtà è l'hanno scritto... Però il sottotitolo è un po' più bello. No, quella è la tagline che noi comunisti non usiamo, il sottotitolo di questo film è troppo lungo, ci hanno scritto un libro solo sul sottotitolo. Il titolo del libro che parlava del sottotitolo era ancora più lungo, più infatti lungo. Hanno scritto l'enciclopedia. Ma prima di dire due parole sul film, vorrei chiederle, ma voi di Regalcioffoli e Roccapalungba. Noi dello Stato di Regalcioffoli. Dello Stato di Regalcioffoli in provincia del cos'è? Iperstato noi di controlliamo ovviamente lo Stato di Roccapalungba. Perfetto. Noi siamo nel continente di Regalcioffoli. Nel continente nero. Ma voi nero no. Scusi, rosso. Non volevo dirlo rosso, paraponzi ponzi po. E voi siete anche informatizzati, cioè siete su internet, su Facebook? Sì, c'è noi... una pagina dove i nostri amici no, non siamo su trovare. Facebook perché ovviamente è comunista, noi siamo su Communist Book. Il libro Communist, appunto, book. Communist Book non sarebbe meglio Combook? Possiamo proporre questo www.combook.com possiamo proporre questo .com Come interessante anche per questo attaccamento, esatto, alla Sicilia. Alla Sicilia. Però anche per era una volta la nostra nazione, poi prima di espugnarla dal capitalismo. Ovviamente io volevo spendere un po' di parole sul film. Sì, ma proprio poche. Allora, questo film ovviamente è un film in bianco e nero. Sì. Dura meno degli altri. Ma per scelta o perché non avevate la pellicola? No, perché è un film molto vecchio. Ah, perfetto. Sì, sì, le dico che hanno scritto addirittura un'enciclopedia sul titolo del libro che parla del sottotitolo del film. Perfetto. Che ricordiamo è Sul sombrero, falce e martello, son con me. Sempre con me, una cosa del genere. Una cosa del genere. Sono non era con te. No, tra l'altro il titolo cambia da momento a momento. Quindi in momenti aggiornati sì, con me. Non ricordo bene adesso il titolo di questo film perché me l'ha detto il mio collaboratore. Era un film che io non volevo trasmettere. Ma è neorealismo, insomma. Sì, è neorealismo. Ho detto trasmettiamo. Ho detto vabbè, se dobbiamo farlo. Il mio collaboratore, ovviamente, è Fidelio Cusimano 2. Ah, vabbè, certamente. Sì. Bis. Sì, bis. Ci chiamiamo tutti così in questo nel collettivo Giancarlo Mottello. Questo film, insomma, inquadra un bellissimo sombrero in bianco e nero. Beh. Con sopra i vermi. Il vermi rappresenta il capitalismo, no? Che cerca di, sì, di mettersi sopra la falce e il martello e sono sul sombrero, no? Il sombrero rappresenta la Spagna. A un certo punto arriva un verme con la corona, sarebbe il re di Spagna. Il re di Spagna che un vuole... verme con la corona. Sì, un verme, sì, con la corona, un film molto bello, gli effetti, sì, speciali degli anni 20. Sì. Bellissimo. Si vede questo verme di gomma e lì si comincia a vedere come anche il film sia stato fatto proprio con dei mezzi che vengono... Che per l'epoca erano rivoluzionari. Sì, la gomma che viene dal petrolio, quindi dal capitalismo, il verme di gomma con la corona, che è il re spagnolo. Alla fine, sì, l'anima di questo film è proprio vedere la falce e il martello che si accendono, prendono vita e uccidono i vermi. E quindi si vede l'inanimatezza di queste forme di non vita che sono la falce e il martello. Quando parla così, uccidono... inanimatezza di forme di non vita, io... Sì, lei ansima. Vero? Io ansimo. Lo sapevo. Io lei sta per dire una cosa, io ansimo. Prendono vita e uccidono i vermi. Il film dura 6 ore, meno degli altri film, duravano solitamente 9-12 ore. Non l'ho, sì, scelto io, appunto. Quindi mi scuso se la durata per del la film durata è troppo inferiore. Breve. Io non credo che però gli spettatori se ne, come dire, dispiaceranno. No, guardi, allora io le voglio dire che il nostro film, il nostro cinema è così bello, così forte, che addirittura a volte per la bellezza dei se film lo vogliono rivedere subito. No, vediamo che molta gente resta in sala appesa a una corda al tetto perché vogliono vederlo, vogliono meglio, rivederlo meglio dall'alto. Io credo che non sia quello il e non motivo se ne vanno. Perché sì, perché non credo sia quello il motivo che adduce lei con, no, spiegazione. Guardi, io le posso dire che così ho detto, insomma, adduce. No, adduce no. Lo sa che no, è composta, no, da ad più no, duce. No, no, azzar facciamo. Azzar. Azzar. No, anzi, lei anzi, ma anche anzi qui. Bene, quindi invito tutti quanti al Cineforum di Regalcioffoli. Venite nel nostro stato, vi vediamo anche la tessera gratis per comprare le patatine, ovviamente patatine russe. Ovviamente, va bene. Allora, dopo aver ascoltato il grande Fidelio Cusimano, grazie, ringraziamo, ci ascoltiamo un pezzo di Usher, che si chiama? Non assolutamente non è un pezzo di Usher, ma siccome hai sottolineato quello, io pensavo fosse quello. Ci ascoltiamo gli M.O.P. con Ante Up Robin Hood. Ma non la sai, tu non conosci. Ma cos'è? Ma lui non conosce la vera musica comunista. Fatelo, questa è musica da... comunista. Ah, Ante Up Robin Hood Theory. Lei non capisce niente. Allora la lanci lei. M.O.P. Ciao. Ciao. Fidelio. Sempre forever. Antonio. You know me, get ready to go down. Tunnel stale, shout to Big Cat Cypher Sounds, M.O.P. Andy up in the fucking background. For the real niggas, you know me. Shout to Brooklyn, Queens, Long Island, Staten Island, Uptown Harlem, the BX. All my real niggas with the 20 inches outside, you know me. Fake niggas, get the fuck out and hold on to your shit, you know me. Fun flex, one time for your motherfucking mind. One. Get him, hit him, hit him, yeah, pump, jack him, yeah, pump, jack him. off her own glow, let marijuana. I'ma do what I wanna. Quiet as kept, pray till I'm inspired and stretched. Yes, Lord. Rientriamo allora, subito. Sì, una notizia, l'ultima, l'ultima. Spazzatura abbandonata in strada. Per cercare anche ancora inchiostro. Ma ora facciamo scrivere sul, non so, sul giornale di Sicilia. Ci stiamo lavando le mani. No, no, ma vi prego, su Facebook scriveteci tutte le cavolate scrivono nelle vostre province, nei vostri giornali locali, perché sono interessanti. Tutte le cavolate scrivono, il che l'ha venduto al mercato. Ho detto che scrivono. Guarda, oggi stiamo raggiungendo livelli di dislessia. Sì, che sì, sono oggi stiamo raggiungendo livelli di dislessia. Lui per risparmiare un di ovviamente. L'ha unito, c'è crisi, quindi, c'è crisi, quindi meglio un di mi, meno. Mi tocca un dì al giorno. Senti, la donna più grassa del mondo dimagrisce facendo maratone di sesso. Io voglio sapere però chi... al telegiornale. Però voglio sapere chi sarà, cioè, chi no, sarà no, sì, no, questa è una domanda. L'hai sentito al telegiornale addirittura, infatti sì, la fonte è TG.com. Pauline Potter, madre che... di Harry. Probabile, forse di tutti gli Harry Potter del mondo. Ma del ci sono Harry Potter? No, ce li ha dentro lei Harry Potter. Ah sì, se le mangiate esatto, tutti. Tutti i libri. Sì, sì, sì. 47enne di Sacramento. Io ho la foto davanti. Se lei ha 47 anni, io ne ho 12. In California è la donna più grassa del mondo. Con i suoi quasi 250 kg è entrata l'anno scorso nel libro del Guinness dei primati. Ora però Pauline si è messa a dieta e per riuscire nell'intento ha adottato un metodo alquanto particolare. Una maratona di sesso. Grazie all'aiuto dell'ex marito. Ecco, io mi fermerei su questo. L'ex marito è stato pagato oppure non stanno più insieme ma comunque si continuano a vedere, cioè... Non lo so, però ha un robusto letto. La donna è riuscita a perdere 40 kg, anzi oltre 40 kg, 7 volte al giorno. E questa è la media delle sedute di dimagrimento. Ma per chi ci arriva lì? Non lo so. Ah, si chiamano sedute di dimagrimento? Sì, sì, sì. Per un totale di 4000 calorie bruciate, circa 500 a sessione. Ma è pensare che la donna aveva iniziato a mettere su peso nel 2005 proprio a causa della rottura con il marito. È un esercizio divertente, ammette Pauline, anche se non riesco molto a muovermi nel letto. Certo, non assumere più di 10.000 calorie al giorno può avere contribuito alla diminuzione di peso. Cioè, voi vi rendete conto? Lei si lascia, per il dolore inizia a mangiare, diventa la donna più grassa del mondo. Ora, aspetta, no, aspetta. E adesso si rifà l'ex marito per dimagrire. Io ora ho una domanda che io penso... No, vai sopra, vai un attimo su. Oh, sì. Oh, c'è questa, c'è una foto di questa signora, ovviamente. Che fa la spaccata. Che fa la spaccata nel divano. Ora io dico, fisicamente. Cioè, nel senso che non può unire le gambe. Sì, esatto. No, quindi... non si arriva, no. Non si arriva all'organo genitale, non ci si arriva. E come fa? Non lo so. Ma anche perché o a meno che il marito ha... o a meno che il l'ex marito, marito, l'ex marito, che tanto pure è ex, quindi sarà fa di professione lo spalatore. Ma infatti, se fa di professione. No, perché non ci si può arrivare. Altrimenti non capisco come proprio fisicamente si possa fare sesso con questa donna. Sì. Ma non lo so, forse non lo faranno convenzionale e qui comunque amiche, if you know what I mean. Okay. Amiche ascoltatrici, abbiamo un annuncio da fare, noi qui siamo tutti grassi, quindi sì, sì, vogliamo dimagrire tutti quanti. Ecco. Questa è importante. È importante. Questa degli occhiali da sole è carina. Sì, questa qui degli occhiali da sole comunque è molto andrebbe carina. Detta, sì. Sì, sì, sì. Quindi diciamo che lo facciamo come una campagna di sensibilizzazione. Sì, ma anche montagna, una seria, una notizia seria. Sì, una notizia seria. Perché cosa è successo? Una studentessa britannica di 17 anni, Laura Musson. Musson, sì. O Masson, non lo so. Beh, penso Masson. Io direi che Musson mi piace, però. Vabbè, studio Musson. Musson, sì, sì, sì. Ha avuto una violenta reazione allergica ad un paio di occhiali da sole che aveva comprato per 2 euro su una bancarella in Spagna. A 2 euro, insomma. A 2 euro, dico. Una buona cifra, cosa vuoi che sì. Vabbè, che sì. In Spagna il suo viso ha iniziato a gonfiarsi come un pallone. I giornali scrivono sempre molto esageratamente. Noi abbiamo le foto del prima e del dopo. Insomma, non è un pallone, è un po'. Sì, è un bel gonfiore. Sembra un po' come la se avessero messo del botolino esagerando sotto gli occhi. Un po' qui. Ma sei presente la Lecciso quando ho sbagliato e si è presentata in TV col labbro che gli usciva? Ecco, a lei escono, diciamo, la parte alta dello zigomo, l'occhiaia, diciamo. Esatto, soprattutto appunto nelle zone di occhi e naso. Tanto che sì, persino i genitori della 17enne hanno avuto problemi a riconoscere. Addirittura, vabbè. Curata inizialmente in Spagna, dove si trova in villeggiatura, la ragazza è tornata nel Regno Unito, dove i medici hanno scoperto che la reazione è stata data dalla plastica nociva degli occhiali. Quindi comprate occhiali da sole da almeno 100 euro se non volete perdere. Ma comunque vostro... comprate magari dalle bancarelle, voglio dire, assicuratevi che siano non siano. La foto bella è che non è che lei c'è il prima e dopo in tutte e due senza occhiali. Prima gli occhiali da sole ed è felice dell'acquisto con 2 euro. Poi la reazione, cioè quindi proprio ti mette tristezza, non ne vuoi comprare mai più occhiali nelle bancarelle. Ottima campagna. Esatto, sì, esatto. Saranno felici gli ambulanti. Lei dice che si stava gonfiando e diventando rossa. Pensavo che fosse il troppo sole, ma avevo appena spalmato una crema a protezione 30, quindi non era possibile. E con le dovute cure il viso di Laura è tornato alla normalità, anche se le autorità sanitarie hanno chiesto di fare attenzione all'acquisto di occhiali a basso costo. Va bene, situazioni che possono provocare. Sono le 20 e 27, mi fanno segno alla regia che facciamo, mandiamo l'ultimo. È una richiesta che ci è arrivata. Speriamo che ci sia. Ma è da tornata Jess che ci ascolta. Ma speriamo ci ascolti anche oggi. Ma ci ascolta sicuramente Jess, perché insomma ormai è una nostra ascoltatrice fissa. E direi che possiamo dedicarle questa canzone. Per lei, System of a Down, Attua. E noi ci rivediamo mercoledì prossimo, sempre qui con l'Onda in Onda, sempre su Radio Panorama. E salutiamo soprattutto Claudio, che riprende la trasmissione Positive giovedì Vibration. Positive Vibration, esatto. Ci sta ascoltando e dice che facciamo cagare. Noi diciamo fai cagare tu. Quindi tanti saluti, ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao. Ciao. To gain, to lose. All the world I've seen before me passing by. You don't care about how I feel. I don't feel it anymore. You don't care about how I feel. I don't feel it anymore. You don't care about how I feel. I don't feel it anymore. You don't care about how I feel. I don't feel it anymore. Passing by.